Il punto di Stefano Folli. Aveva tenuto tutto il giorno il dato dell'affluenza con un piccolo calo, nonostante la neve e il freddo. Poi in serata il crollo che cambia tutte le valutazioni. Quanto hanno pesato le condizioni meteorologiche e quanto altre considerazioni più politiche. Stamane si capirà meglio, anche perché il dato delle regionali in Lombardia e nel Lazio va in controtendenza. Comunque nel 2008 con l'80% di affluenza finale si realizzò una netta vittoria di Berlusconi. Oggi, se ci fosse il 7-8% in meno, il vincitore di allora sarebbe, come logico, il più penalizzato. In ogni caso la partita politica è aperta, la posta in gioco rimane la stessa: come garantire all'Italia una giusta miscela di stabilità e di rinnovamento, sapendo che senza l'una non può esserci l'altro e viceversa.